Il punto di Stefano Folli. Non c'è dubbio che la posizione anti-austerità della Francia può innescare una dinamica nuova in Europa, ma è presto per dirlo. Senza dubbio esistono a Parigi anche ragioni di politica interna, visto che il consenso al governo socialista è al minimo e l'avanzata della destra di Marine Le Pen è evidente a tutti. Il problema dell'Italia è che ha tutto da guadagnare da una Francia che si espone su una linea, diciamo così, contraria all'ortodossia tedesca, ma paese più debole non può dirlo troppo, perché altrimenti rischia di compromettere il già complicato cammino delle riforme. Ecco perché il ministro Padoan ammonisce che le riforme, appunto, si fanno comunque, anche durante le fasi di recessione, quando le risorse sono scarse. È la tesi ufficiale dell'Europa, quella espressa anche dalla Banca Centrale. Oppure lo stesso Draghi, come ha fatto capire di recente, si rende conto che la crescita economica è ormai indispensabile. E dunque il sentiero si stringe. I famosi parametri sono sotto pressione, ma l'Italia in particolare sa di non poter trovare un alibi per sottrarsi all'impegno riformatore.